Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. In Italia, secondo quanto rilevato dall'Istituto Superiore di Sanità, la resistenza agli antibiotici si mantiene tra le più elevate in Europa. Per promuovere la cultura dell'appropriatezza nel trattamento delle infezioni e nel controllo della resistenza antimicrobica, il GISA ha formulato un decalogo che propone le azioni prioritarie per affrontare il problema. A Obiettivo Salute il professor Francesco Menichetti, presidente GISA e docente di malattie infettive all'Università di Pisa. Il decalogo ha un senso perché affronta la sfida posta dai germi che risultano resistenti agli antibiotici. La resistenza agli antibiotici è direttamente proporzionale all'utilizzo di questi importanti farmaci, quindi occorre fare di tutto per contenerne l'uso. Bisogna cercare di eliminare l'uso inappropriato e utilizzarli al meglio quando in effetti essi servono. Questo è un tema, direi, dominante. L'altro tema: bisogna fare ogni sforzo con le buone pratiche assistenziali affinché i germi resistenti non passino da paziente a paziente, provocando quelle che sono ben conosciute come infezioni ospedaliere, infezioni nosocomiali, che sono molto frequenti nei pazienti ricoverati, fragili, e che spesso sono causa di prolungamento di degenza, quando non di letalità. Per sapere come utilizzare in modo corretto gli antibiotici, ascoltate l'approfondimento del professor Menichetti sulle pagine di Obiettivo Salute. Cervello. Oggi possiamo svelarne i segreti grazie alle nuove metodologie di imaging molecolare. È una delle nuove frontiere della biochimica clinica di cui si è parlato al 49esimo congresso nazionale della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica a Firenze. Ci spiega come funziona il presidente della società scientifica, professor Marcello Ciaccio. Queste tecniche permettono oggi di studiare le funzioni cerebrali sia in condizioni di normalità, quindi in condizioni fisiologiche, sia in condizioni di patologia, e permettono di porre diagnosi e soprattutto diagnosi differenziale che prima non era possibile né con la clinica né con altre indagini diagnostiche. E ad esempio poter diagnosticare le diverse sindromi neurodegenerative, poter fare diagnosi differenziale tra una demenza di Alzheimer e una demenza senile, fare diagnosi differenziale tra la malattia di Parkinson e le sindrome parkinsoniane. Tutto questo oggi può essere studiato con queste nuove strumentazioni, che tra l'altro sono strumentazioni prive di danni biologici, perché non sono strumentazioni che emettono radiazioni. La più semplice e comune è la spettroscopia di risonanza magnetica, che ha questi grandissimi vantaggi: il poter quindi studiare le funzioni metaboliche in organi difficilmente valutabili con altre metodiche, con facilità e con grande accuratezza diagnostica. Per oggi è tutto, tra poco vi aspetto in diretta Facebook per sciogliere insieme a un esperto le nostre tensioni muscolari. La programmazione di Radio 24 continua con Melog, noi ci vediamo tra poco e ci sentiamo domani come sempre a mezzogiorno, quando scocca l'ora della salute. Buonissima giornata da Nicoletta.